sono l'omertà. Un ex angelo qualsiasi corrotto da impurità. La voce diventa ragione, io divento un'entità. Divento accidia, gola, ira, invidia, avidità. Se oggi piovono diamanti, domani c'è aridità. Drogati di denaro, vittime di iniquità. Dipendenze, differenze nelle possibilità. Ti vedo chiaramente se perdo lucidità. Ti cerco morbosamente se perdo felicità. I miei limiti peggiori, le mie sole unicità. Ci uccidiamo all'unisono, tra di noi complicità. Fai crollare le certezze, tutta la solidità. Solo due egoismi creano dell'unità. Che interessi comuni fondano comunità. Sono un ragazzo di strada, disprezzo le infamità. Sono attratto dalla vita e dalla sua fatalità. Da beatitudine a ingratitudine, la solitudine sul mio trono di lacrime. Le risa dei vincenti, il tormento delle anime. La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più fragile. Specchio di vanità, fammi carità. Dimmi che il sole arriverà e che non tarderà. Quando accendi il letto in cielo e spegni la città, tu mi fai sentire il vuoto, togli gravità. Ammetti che il bene che ho fatto non ritornerà. Dammi la verità, solo la verità. Avverrà tutti i sogni, toglimi felicità. Fai sì che l'illusione poi non svanirà. Più mi cerchi più ti fuggo. Ti apro il cuore e ci frugo. Mi ci rifugio, voltiamo pagina, mettiamo un punto. Che ciò che ho messo ho detto tutto, un po' più di tutto. I sentimenti che sviluppo, il ciglio del dirupo. Tutto il male che hai provato da quando mi hai conosciuto. Botte di topicida, shot di cianuro. Resto pur sempre carne, alla fine ho ceduto. Il diavolo neonato, l'angelo caduto. Scusa se ti ho detto il falso e poi l'ho ripetuto. Io lo so che in fondo non ti sono mai piaciuto. Tutto il dolore ricevuto, un po' l'ho voluto. Sono il primo dei bugiardi, non mi hai mai creduto. Nel mondo solo l'amore finto, odio gratuito. Ora che incarno tutto quello che ho sempre temuto. E non ho mai tremato, svuota tutto il tamburo. Da beatitudine a ingratitudine, la solitudine sul mio trono di lacrime. Le risa dei vincenti, il tormento delle anime. La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più fragile. Specchio di vanità, fammi carità. Dimmi che il sole arriverà e che non tarderà. Quando accendi il letto in cielo e spegni la città, tu mi fai sentire il vuoto, togli gravità. Ammetti che il bene che ho fatto non ritornerà. Dammi la verità, solo la verità. Avverrà tutti i sogni, toglimi felicità. Fai sì che l'illusione poi non svanirà. Specchio di vanità, fammi carità. Dimmi che il sole arriverà e che non tarderà. Quando accendi il led in cielo e spegni la città, tu mi fai sentire il vuoto, togli gravità. Ammetti che il bene che ho fatto non ritornerà. Dammi la verità, solo la verità. Avverrà tutti i sogni, toglimi felicità. Fai sì che l'illusione poi non svanirà.